Sezione nona della Divina Commedia, Il Paradiso, di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto nono. Da poiché Carlo tuo, bella Clemenza, m'ebbe chiarito, mi narrò gli inganni che ricever dovea la sua semenza. Ma disse: taci e lascia volger gli anni, sì ch'io non posso dir se non che pianto giusto verrà di rietro ai vostri danni. E già la vita di quel lume santo, rivolta sera al sol che la riempe, come quel ben ch'ad ogni cosa è tanto. Ai anime ingannate, fatue ed empie, che da sì fatto ben torcete i cuori, drizzando in vanità le vostre tempie. Ed ecco, un altro di quegli splendori ver me si fece, e il suo voler piacermi significava nel chiarir di fuori. Gli occhi di Beatrice, che eran fermi sovra me, come pria, di caro assenso al mio disio certificato fermi. De, metti al mio voler tosto compenso, beato spirto, dissi, e fammi prova ch'io possa in te rifletter quel ch'io penso. Onde la luce, che m'era ancor nuova, del suo profondo, ond'ella pria cantava, seguette, come a cui di ben far giova. In quella parte della terra prava italica, che siede intra Rialto e le fontane di Brenta e di Piava, si leva un colle e non surge molt'alto, là onde scese già una facella che fece alla contrada grande assalto. D'una radice nacqui ed io ed ella. Cunizza fui chiamata, e qui rifulgo perché mi vinse il lume d'esta stella. Ma lietamente a me medesma indulgo la cagion di mia sorte, e non mi noia, che forse parria forte al vostro vulgo. Di questa luculenta e cara gioia del nostro cielo, che più m'è propinqua, grande fama rimase, e pria che muoia questo centesim'anno ancor s'incinqua. Vedi, se farsi dè l'uomo eccellente, sì ch'altra vita la prima relinqua. E ciò non pensa la turba presente, che tagliamento etatice richiude, né per esser battuta ancor si pente. Ma tosto fia che Padova al palude cangerà l'acqua che Vincenza bagna, per essere al dover le genti crude, e dove sì le cagnan s'accompagna, tal signoreggia e va con la testa alta, che già per lui carpir si fa la ragna. Piangerà feltro ancora la disfalta dell'empio suo pastor, che sarà sconcia, sì che per simil non s'entrò in Malta. Troppo sarebbe larga la bigoncia che ricevesse il sangue ferrarese, e stanco ch'il pesasse ad oncia che donerà questo prete cortese per mostrarsi di parte, e cotai doni conformi fieno al viver del paese. Su sono specchi, voi dicete troni, onde rifulge a noi Dio giudicante, sì che questi parlarne paion buoni. Qui si tacette, e fecemi sembiante che fosse ad altro volta per la ruota, in che si mise com'era davante. L'altra Letizia, che m'era già nota preclara cosa, mi si fece in vista, qual fin balascio in che lo sol percuota. Per letiziar lassù fulgor s'acquista, sì come riso qui, ma giù s'abbuia l'ombra di fuor come la mente è trista. Dio vede tutto, e tuo vedersi in luia, diss'io, beato spirto, sì che nulla voglia di sé a te può esser fuia. Dunque, la voce tua, che il ciel trastulla sempre col canto di quei fuochi pii che di sei ali fanno si cuculla, perché non soddisface i miei disii? Già non attenderei io tua dimanda, s'io m'intuassi come tu t'immii. La maggior valle in che l'acqua si spanda, incominciaro allor le sue parole, fuor di quel mar che la terra in ghirlanda, tra discordanti liti contra il sole tanto sen va, che fa meridiano laddove l'orizzonte pria far suole. Di quella valle fui io litorano, tra Ebro e Macra, che per cammin corte lo genovese parte dal Toscano. Ad un occaso quasi e ad un orto buggea siede, e la terra ond'io fui, che fe del sangue suo già caldo il porto. Folco, mi disse, quella gente a cui fu noto il nome mio, e questo cielo di me s'imprenta, come io fe di lui, che più non arse la figlia di Belo, noiando e da Sichio e da Creusa di me, infin che si convenne al pelo, né quella Rodopea, che delusa fu da Demofonte, né Alcide, quando Iole nel core ebbe rinchiusa. Non però qui si pente, ma si ride, non della colpa, ch'a mente non torna, ma del valor ch'ordinò e provvide. Qui si rimira nell'arte ch'adorna cotanto effetto, e discernesi il bene, perché il mondo di su, quel di giù, torna. Ma perché le tue voglie tutte piene t'emporti che son nate in questa spera, procedere ancor oltre mi conviene. Tu vuoi saper chi è in questa lumiera che qui appresso me così scintilla come raggio di sole in acqua mera? Or sappi che là entro si tranquilla Rahab, ed a nostro ordine congiunta di lei nel sommo grado si sigilla. Da questo cielo, in cui l'ombra s'appunta che il vostro mondo face, pria ch'altr'alma del trionfo di Cristo fu assunta. Ben si convenne lei lasciar per palma in alcun cielo dell'alta vittoria che s'acquistò con l'una e l'altra palma. Perché ella favorò la prima gloria di Giosuè in sulla terra santa, che poco tocca al Papa la memoria. La tua città, che di colui è pianta, che pria volse le spalle al suo fattore, e di cui è l'anvidia tanto pianta, produce e spande il maledetto fiore, ch'ha disviate le pecore e gli agni, perocché fatto a lupo del pastore. Per questo l'Evangelio e i dottor Magni son de relitti, e solo ai decretali si studia, sì che pare a lor vivagni. A questo intende il Papa e i cardinali, non vanno i lor pensieri a Nazarette, là dove Gabriello aperse l'ali. Ma Vaticano e l'altre parti elette di Roma, che son state cimitero alla milizia che Pietro seguette, tosto libere fien dell'adultero. Fine del canto 9.